e benvenuti agli ascoltatori di Radio Transizione di Fase. E noi siamo qui a Crotone, come magari avrete avuto modo di capire, e in queste ore in cui è presente questa manifestazione indetta dalla rete difesa del territorio Franconistico per dire basta alla emergenza rifiuti in Calabria, ecco, noi siamo stati qui, il nostro media camper è stato da supporto alla manifestazione, praticamente abbiamo animato anche la piazza, abbiamo animato il corteo, indicazioni di tipo logistico, quindi magari avrete sentito anche la mia voce dire avanti, partiamo, coraggio, e spronare la gente a scendere in piazza. E ora invece ci troviamo nella piazza centrale della città, dove sta per arrivare il corteo e dove appunto si terranno poi i vari interventi dal palco, interventi che la rete difesa del territorio Franconistico ci teneva a sottolineare, che si trattava di interventi soprattutto di persone che vivono ogni giorno, che vivono quotidianamente e costantemente il problema dell'ambiente. Quindi finalmente abbiamo in Calabria una manifestazione che è nata realmente dal basso, una manifestazione che è nata da una reale esigenza, quella dei cittadini calabresi, cioè di dire basta a questa emergenza. Ebbene, in questo Media Center organizzato da, lo ricordo, Transizione di Fase e da Indimedia Calabria, abbiamo dato una mano alla manifestazione e siamo anche molto fieri di tutto ciò. E adesso invece ci siamo fermati, come vi dicevo, in piazza e fra poco, se riusciremo, come ci auguriamo, saremo qui a intervistare magari qualche persona che si trova qui e che è disponibile a farlo. Quindi continuate ad ascoltare Transizione di Fase e continuate anche a seguire i vari aggiornamenti presenti sulla rete. Non ne sento il bisogno, non ne sento il bisogno. Giro di frequenza, la pazienza non mi aiuta, come sei caduta in basso. Tu sei cibo per il telegrasso, tu che sei virtù per il telefesso. Cesso dove l'escremento fa posa, l'odio se contento e si gasa. Tu sei la casa dove la famiglia si sputtana per una manciata di contanti. Paga i figuranti perché siano sorridenti quando applaudono a comando. E senti, mostrami per ore macchine a vapore, pentole per tutte le cotture, eppure certi materassi che vendi in abbondanza. Scemo io che sono stato senza, riempimi la panza con la roba che ti avanza. Se ti spacco sentirò la tua mancanza. No, no, no, no, no, no. Non ne sento il bisogno, non ne sento il bisogno. No, no, no, no, no, no. Non ne sento il bisogno, non ne sento il bisogno. E le voci che sentite sono le voci del corteo che è appena giunto nella piazza di Crotone. Un corteo regionale fatto da molti studenti e fatto da molte realtà ambientali che appunto si occupano della questione in Calabria. Il corteo dunque è appena arrivato e fra poco saremo in grado di fornirvi ulteriori notizie. Prima di qualsiasi altra notizia però che potremmo darvi, vogliamo, e ci corre l'obbligo, ma vogliamo soprattutto farlo, vogliamo dedicare il nostro lavoro, il lavoro di oggi, ma in realtà tutto ciò che stiamo facendo, lo vogliamo dedicare a una persona che ci è stata molto vicina. e che noi la definiamo anche come un nostro padre spirituale a questo punto, e parlo ciò di Ciccio Svelo. Ricordo il 2009 quando ad Amantea eravamo su questo camper e tutti insieme per il primo Media Center, che poi ha dato vita, probabilmente è stata anche una spinta insomma a creare la radio, a creare Transizione di Fase. E parlo dunque di Ciccio Svelo, che non è più con noi e al quale dedichiamo questa giornata e dedichiamo tutto il nostro lavoro. Ciao Ciccio. This song I wrote in a little country church in Surrey. I was skulking up the back listening to the vicar banging on about this and that, and I went outside and wrote this. It's called Into My Arms. Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder, is that true? But if I did, I would summon them together, ask them to watch over you. To each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe we can choose our path, and we can walk them, me and you. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. into my arms. Thank you. Siamo qui su Transizione di Fase da Crotone, dal Media Center allestito da Transizione di Fase Indimedia Calabria. Il corteo, come vi dicevamo, è giunto in piazza e ora sono tutti confluiti qui. Cerchiamo di intervistare comunque qualche persona, qualche ragazzo, soprattutto perché lo vogliamo ricordare. Il corteo è composto da molti studenti di Crotone, ma non solo di Crotone, oltre che chiaramente a varie associazioni di natura ambientalista e anche da molti cittadini.